24 mattino. Sono le 8 e 17 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi, è il momento di parlare di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Grazie Alessandro, buongiorno a tutti. Eccoci. Oggi parliamo di un tema molto caro a molti italiani, me compreso, se posso autocitare. Ma ci fa piacere perché ti avrei provocato subito sull'argomento. Ma io ti conosco e quindi ho prevenuto il tutto. No, parliamo di un tema molto caro. Ci sono molte famiglie che hanno figli che vanno all'asilo, al nido, e quindi insomma spesso le cose faticano a essere compatibili anche economicamente. Esatto, insomma è difficile organizzarsi all'interno della famiglia. Ma tu rinunceresti al tuo lavoro per fare il mammo? Oddio, lo so che passiamo alla seconda domanda. È una provocazione fin troppo banale naturalmente, ma è piuttosto raro che gli uomini si pongano questa domanda, mentre quasi tutte le donne che scelgono di fare un figlio si chiedono come questo evento, che è sicuramente molto felice, inciderà poi sulla loro vita lavorativa. E questo perché, per la difficoltà, come dicevamo con Alessandro Milan, di conciliare le esigenze professionali con le responsabilità familiari. È una situazione più che nota, è un problema che riguarda tutte le donne del mondo. Le italiane sono un po' più svantaggiate però delle loro colleghe europee, perché lo Stato non ha aiutato fino ad ora moltissimo appunto a conciliare il lavoro con la vita familiare. Ecco perché c'è allo studio da parte del Ministero delle Pari Opportunità di una serie di provvedimenti che rendano più facile conciliare casa e lavoro. E allora stamattina a parlarcene è il capo dipartimento del Ministero per le Pari Opportunità, la professoressa Isabella Rauti, che saluto e ringrazio di essere a Soldi e dintorni questa mattina per questo buongiorno. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Allora, questo pacchetto si chiama proprio conciliazione, 40 milioni di euro di cui faranno parte voucher per gli asili nido, la Tagesmutter, cioè il microasilo di condominio, ma c'è anche il progetto di costituire elenchi di badanti e babysitter a disposizione delle famiglie presso i comuni, quindi insomma un bel po' di soldini per le mamme, professoressa Rauti. Sì, per le mamme e per le famiglie. Vorrei precisare che questo decreto appunto di riparto del nostro fondo ha superato il suo passaggio nella conferenza permanente Stato, Regioni e Province, e a questo punto, dopo il decreto del Ministro, occorre evidentemente un ulteriore passaggio per intese specifiche, proprio per realizzare concretamente sul territorio le misure cui lei faceva riferimento. Lei ne ha individuate tre, in realtà noi allo studio ne abbiamo anche altre due, ma sicuramente le tre indicate sono quelle con immediata ricaduta. Se posso entrare nel dettaglio, l'unica cosa che volevo sapere, il ministro Carfagni ha già firmato o deve firmare ancora il decreto? No, deve ancora firmare il decreto, ecco, ma è questione veramente, noi ci auguriamo in questa stessa settimana o all'inizio della prossima. Cominciamo allora nel concreto a capire quali saranno queste misure, perché poi ovviamente concretamente le famiglie vogliono sapere come potranno accedere anche a questo denaro, che poi in realtà non è denaro erogato direttamente, ma si tratta per esempio, intanto, per quello che riguarda i voucher, di ticket per accedere agli asili nido, professoressa Rauti. Sì, in ogni caso, ecco, non è una cessione diretta di denaro, è un'attribuzione di risorse alle regioni, e con le quali noi dovremo stipulare appositi protocolli d'intesa evidentemente per realizzare le misure a livello territoriale. Devo anche specificare che si tratta di misure e progetti pilota dal carattere sperimentale, che poi potranno essere messi a sistema naturalmente se i risultati saranno efficaci, ma noi immaginiamo di sì. Nel dettaglio io comincerei, se è possibile, dalla misura che noi abbiamo definito più asili nido e che è poi quella delle Tagesmutter, come si usa dire. Si tratta di un servizio offerto alle famiglie per potenziare gli asili nido o anche per integrare gli asili nido. Si tratta sostanzialmente, e anche letteralmente tradotto, di mamme di giorno. Si tratta quindi di nidi di famiglia o, come diceva lei, di nidi condominiali, quindi uno strumento insomma anche interessante e abbastanza diffuso nel resto d'Europa, meno in Italia. Sì, già felicemente sperimentato, ricordiamo, proprio nel Lazio e in Trentino, giusto? Esatto. L'idea diciamo è questa, molto semplicemente: alcune mamme organizzate evidentemente in cooperative svolgono un servizio in casa propria, quindi la mamma a domicilio in questo senso, per un numero limitato di bambini in età prescolare, quindi da 0 ai 3 anni, un numero limitato perché si pensa di non superare il numero dei 5 o 6 bambini. Le Tagesmutter mutte evidentemente saranno adeguatamente formate, come è necessario avere dei certificati di idoneità per la struttura. Si tratta anche di inserirsi però in un sistema a rete di cooperative, perché le taghe smutter evidentemente non possono essere figure isolate, ma rientrano in una rete cooperativa che prevede altre figure correlate, come evidentemente il pedagogista, lo psicologo, il pediatra. Quindi si tratta di non di una improvvisazione, cioè non siamo nel fai da te, ma casomai è il contrario, e è anche uno strumento non solo per aiutare le mamme e le famiglie a conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro, anche perché si immagina che questi asili possano avere orari diversi o integrativi o comunque supplementari rispetto agli orari tradizionali. Penso per esempio a una mamma che lavora in condizione di lavoro flessibile e magari ha il problema del tardo pomeriggio, o il problema capita di lavorare il sabato, di lavorare anche la domenica. Quindi in questo senso bisogna studiare delle misure più rispondenti alle reali esigenze. Sottolineo l'ultimo aspetto: c'è anche una convenienza economica, perché naturalmente i costi di un progetto di questo genere e soprattutto i costi di un servizio di questo genere sono minori rispetto ad altri. Andiamo ai voucher, professore Sarauti, ci tenevo anche a questi, perché tra l'altro molte regioni hanno già erogato misure di questo tipo. Mi riferisco per esempio all'Emilia Romagna, che eroga voucher per 250 euro al mese. In Toscana invece ci sono buoni spesa da 1.500 euro destinati alle famiglie che non hanno trovato un posto all'asilo nido. In questo caso come funzioneranno? Sì, aggiungerei al suo elenco anche il Trentino e il Friuli, che ha adottato un sistema simile. Molto semplicemente, anzitutto i voucher sono finalizzati a facilitare l'accesso ai servizi, penso ai servizi per la prima infanzia, ma anche ai servizi relativi al sostegno, diciamo, di disabili e di anziani. Sono, li potremmo definire, dei titoli di spesa, ecco, diciamo così, che consentono ai titolari di acquisire, a fronte anche di un minimo contributo personale, potrebbe essere per esempio nella misura del 10%, ma questo è da definire evidentemente, comunque a fronte di un contributo personale si possono acquisire una serie di servizi, tutti tesi a favorire la conciliazione, che vengono erogati in strutture dedicate, possono essere appunto nidi d'infanzia, micronidi, servizi educativi per minori, ma anche penso, perché no, palestre, centri estivi, ludoteche oppure assistenza domiciliare ed altro. Sono dei buoni che evidentemente poi le regioni dovranno attribuire in base a graduatorie esatto, che saranno stilate evidentemente sul reddito familiare, ma anche sulla condizione familiare e anche sulla condizione lavorativa. Professore Sarauti, noi sicuramente ci torneremo su questi argomenti quando sarete e anche le regioni saranno completamente operative. Il problema è, 30 secondi di tempo per concludere, che molto spesso le famiglie che hanno necessità di queste risorse non vengono raggiunte dalle informazioni necessarie per poterle reperire. Come le raggiungerete anche dal punto di vista dell'informazione queste persone che hanno bisogno, queste famiglie che hanno bisogno di questo sostegno? Beh, noi abbiamo previsto nel decreto di parto anche campagne di sensibilizzazione e di comunicazione proprio per informare i cittadini sui servizi che vengono messi a disposizione. Penso anche all'altro elemento di cui parleremo un'altra volta, l'elenco delle badanti e delle babysitter. Esatto, infatti. Allora magari la riconvochiamo nelle prossime giornate per spiegarci anche questo punto del vostro pacchetto conciliazione. Intanto la ringrazio molto e le auguro una buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Presto. Grazie. Alessandro. E allora, tra poco a Salva Danaio, alle 12, sì, è un punto di domanda. No. torno. Non abbiamo dubbi. Torno con i tassi di interesse oggi, perché la Banca Centrale Europea li riduce di nuovo e quindi andiamo un po' ad esplorare tutte le conseguenze sui strumenti di investimento e nell'economia in generale. Sono le 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Slitta la prossima settimana la fiducia sul decreto legge sicurezza. Intanto fa discutere il provvedimento che tra l'altro regolarizza le ronde, introduce il reato di immigrazione clandestina e prolunga fino a 6 mesi il periodo di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione. Duro il commento del leader del PD Franceschini, che dice si torna alle leggi razziali. Non deve succedere mai più, così il presidente americano Obama commenta il raid aereo americano in Afghanistan che ha causato la morte di un centinaio di civili. Profondo rammarico anche per il segretario di Stato Hillary Clinton. Secondo fonti della CNN ci sarebbero però dei dubbi sulla ricostruzione dei fatti. È morto ieri a Roma per un problema cardiaco il chirurgo Carlo Marcelletti, autore del primo trapianto di cuore in Italia su un bambino. Aveva 65 anni, nell'ultimo anno era finito in carcere anche con l'accusa di truffa e concussione. Infine lo sport con il calcio. È il Barcellona, la seconda finalista di Champions League. Ieri gli spagnoli hanno pareggiato 1-1 a Londra con il Chelsea. Il gol a qualificazione è stato realizzato al 93esimo. Poi furibonde proteste dei londinesi per un rigore negato al 95esimo. La finale dunque sarà Barcellona-Manchester United. E allora 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi, 8:33 minuti. Parliamo del decreto sicurezza per un aspetto presente nel decreto, di cui, come dicevo prima, secondo me si parla ancora poco, ma che è molto interessante anche per i numeri che ci sono in Italia. Beh, in Italia, per l'Istat, le unioni miste negli ultimi 15 anni sono triplicate. Nel 2007 sono state 35.000, il 13,8% delle unioni totali in Italia, una su sette più o meno. Basta vedere stranieriinitalia.it, un portale molto seguito dagli stranieri per avere tutte le informazioni del caso sulle normative in vigore, aprirlo ieri, cosa che abbiamo fatto, e trovare questa domanda. Salve, sono un cittadino egiziano in Italia irregolarmente. Ho conosciuto una ragazza italiana, se la sposo posso avere un permesso di soggiorno? E la risposta di stranieriinitalia.it è questa: la legge in vigore prevede la possibilità per il cittadino extraeuropeo di contrarre matrimonio in Italia, anche se privo di permesso di soggiorno. Attenzione però, il DDL sicurezza all'esame della Camera contiene una norma che, se entrasse in vigore, comporterebbe l'obbligo per il cittadino extraeuropeo che vuole contrarre matrimonio di esibire il permesso di soggiorno. È per ora una proposta senza alcun valore di legge. Onorevole Suad Sbai, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei del Popolo della Libertà. Allora, questa risposta formalmente è corretta, cioè così, fino a oggi non ci vuole il permesso di soggiorno per sposarsi. Il decreto sicurezza, per un emendamento che non ha prima firma la sua, ma so che lei è stata molto ispiratrice, si è battuta insomma per questo emendamento, introduce invece l'obbligo di esibire il permesso di soggiorno per chi è extraeuropeo per avere un matrimonio, è così? No, intanto è diverso, ecco, l'emendamento firmato da me e da Mario Contento, esteso anche da Mario Contento, e la modifica introdotta a scopo di venire incontro alle esigenze di molte donne, soprattutto provenienti dai paesi di religione musulmana, donne parlo, di donne, che intendono sposarsi un italiano. Attualmente queste donne, regolarmente residenti, devono produrre un nulla osta dei paesi di origine. Ma diversi di questi paesi d'origine, prevalentemente di religione musulmana, non rilasciano questo nulla osta se non c'è una prova della conversione alla religione islamica del futuro marito italiano. Sì. E questo è solo per, va detto, questo comportamento si applica solamente alle donne, mentre non vale per gli uomini. Questa è una discriminazione, insomma, molto importante. In mancanza di questa prova della conversione, la musulmana, la donna araba, dovrebbe rivolgersi al tribunale per ottenere un'autorizzazione che l'ufficiale di Stato gli dia, sì, l'autorizzazione per celebrare il matrimonio. Questo è un aspetto, no, se vuole. Non ho finito, perché guardi, è molto strano. Sono 30 anni che aspetto una legge del genere, sono 30 anni che la chiediamo, sono 30 anni e questa volta non è stata votata dalle donne di sinistra e della sinistra, e questo mi rammarico, perché si vede non hanno neanche capito l'emendamento. E questo emendamento che è votato in commissione, già in commissione, darà la possibilità alle donne a con un diciamo un'autocertificazione del paese di provenienza in un consolato italiano che gli dia il nulla osta, che gli dia un timbro che lei non è sposata, viene questo qui sì dentro. Però onorevole Sbai, il tema è leggermente diverso, secondo lei sì, vuole, però era interessante dirglielo questo... Molte donne aspettavano questa, perché non è giusto con un italiano si converte a una religione, viene obbligato a convertirsi alla religione, una religione per matrimonio. Ripeto questo, uomini, no. Questo sì, onorevole, però come sa, molti matrimoni misti riguardano anche persone che provengono, che ne so, dal Giappone, ecco, quindi non solo. Ci vuole secondo lei il permesso di soggiorno da esibire e perché? Assolutamente, perché soprattutto per noi tanti anche egiziani e tanti magrebini arabi sono sposati nei loro paesi di provenienza senza un permesso di soggiorno, che il permesso, quando uno prende un permesso di soggiorno ci sono dei controlli sulla persona. Quello però viene già controllato, credo. No, cioè che nulla osti sul fatto che... Ma come lo controlla che lui comunque è sposato, che ha i figli, che no, questi matrimoni sono per avere il permesso di soggiorno. Questi matrimoni costano 15.000, dai 5 ai 15.000 euro, lo sappiamo. Ci sono ragazze che sposano 70enne, 80enne anche dell'est, o ci sono dei ragazzi che sposano le donne anziane per prendere il permesso di soggiorno. Quindi, secondo non lei, è giusto. Certo, bisogna introdurlo. Tra l'altro, io ve lo ricordate il sindaco di Mondovì che noi avemmo già ospite, Stefano Vigliani? Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, perché lei ci raccontò questa vicenda che lo riguardò in primo piano, nel senso, la vicenda era così: c'era una coppia che aveva fatto richiesta di sposarsi, lei insomma si capì che c'era qualcosa che non andava, furono fatte indagini, lui effettivamente era irregolare, fu denunciato, foglio di via, fece però ricorso, nell'attesa del ricorso scadevano i tempi perché avevano fatto le pubblicazioni e lei come pubblico ufficiale era tenuto a sposarli, altrimenti era lei che commetteva un reato. Allora, la vicenda com'è finita? La vicenda è finita che il 29 di aprile io ho vissuto questa situazione paradossale, ovvero come sindaco ho dovuto obbligatoriamente celebrare il matrimonio di una persona che si trova in Italia, o si trovava insomma in Italia, senza permesso di soggiorno e peraltro con un decreto di espulsione pendente, ovvero con un ordine di abbandonare il territorio dello Stato. Cioè, li ha sposati? Li ho sposati perché, così come lei rimarcava, io come pubblico ufficiale, a pena di denuncia di omissione d'atti di ufficio, sono tenuto entro 30 giorni a celebrare il matrimonio da quando questo mi è richiesto. Sa perché? Perché quando lei intervenne l'altra volta, qualcuno anche ci scrisse, devo dire, anche un po' critico nei suoi confronti, a dire: ma come si permette il sindaco a sindacare sulla storia d'amore di due persone che vengono e magari sono, certo, lui era irregolare, questo è stato accertato, però magari probabilmente, sicuramente era innamorato di questa persona, si è sposato. Ma infatti io non sono entrato, certo, nel merito circa l'autenticità, mettiamola così, della volontà di sposarsi di questi due soggetti. Vi erano in dubbio diversi elementi che lasciavano pensare che questo potesse essere un matrimonio di comodo. Quello che io ho denunciato è che non vorrei che proprio il matrimonio divenga un modo improprio per regolarizzare le persone che non dovrebbero essere in Italia, ovvero che sono clandestini. Qui la differenza di età era di 14 anni, quindi voglio dire, potrebbe anche essere verosimile. È difficile oggettivamente determinare se le due persone davvero hanno un'unione sentimentale reale. Certo è che la sensazione è che spesso, come dire, anche in questa circostanza vi sia una volontà precisa di utilizzare il matrimonio per altre finalità. Le dico di più, io ho ricevuto nel durante, ovvero da quando è stato emesso il decreto di espulsione e prima di dover celebrare il matrimonio, nel contempo vi era anche il rinvio da parte del giudice di pace ad udienza di questa vicenda, una sollecitazione da parte dell'avvocato della persona, sì, certo, che ha detto: mi raccomando, ma te lo sposi subito questo soggetto, sì, no? e tra l'altro dall'altra parte, come dire, giudice di pace che non solo poi il 28, il giorno prima della data delle celebrazioni del matrimonio, ha ulteriormente rinviato l'udienza. Le chiedo, sindaco, con che atmosfera insomma, voglio dire, lei li ha visti arrivare, si sono presentati, gli avevano stretto la mano, insomma, no? Cose che si fanno prima del matrimonio. Certo. Ma guardi, la circostanza è sembrata, a mio avviso, ma ribadisco, entriamo in un merito soggettivo in questo caso, perché rimarco, è difficile comprendere se davvero vi è un'unione sentimentale tra due persone. Però mi è sembrata tanto una farsa, mi è sembrato come dire che si sia creato un contesto teatrale per dimostrare che questo era un matrimonio veramente celebrato perché vi era un sentimento di affetto tra le due persone, ma in realtà, ribadisco, la sensazione era tutta un'altra. Quindi davvero io vorrei, e quindi l'appello che avevo avanzato era alle autorità competenti perché provvedessero quanto prima. Infatti lei l'aveva detto, cioè che venga introdotto in Parlamento. Allora il decreto di DDL sulla sicurezza, se approvato così, e siccome è stato apposto alla fiducia si presume che sarà approvato così, prevede questa introduzione. Onorevole Sbai, però ci sarà un cambiamento per migliaia e migliaia di persone. Allora è chiaro ed è accertato dalla cronaca che ci sono anche fatti episodi in cui le forze dell'ordine hanno fatto irruzione per interrompere dei matrimoni che chiaramente erano dei matrimoni di comodo per ottenere il permesso di soggiorno. Non è però una norma troppo restrittiva quella di esibirlo, insomma, di voler andare in qualche modo, si andrà anche a interrompere invece delle storie d'amore, insomma. Questo è dato di fatto. D'amore è da vedere. E intanto andiamo in fiducia per questo motivo, che secondo me non è un motivo importante per andare comunque, e che purtroppo la sinistra si è puntata su questo DDL. Provi lei andare al comune senza nessun documento e chieda l'autorizzazione al matrimonio. Provi lei. Però per un straniero si permette tutto. Per straniero questo relativismo, questo direi anche nichilismo falso, questo buonismo, per il straniero si può tutto. Non è giusto. Qui ci devono essere delle regole. Quando uno viene in Italia chiede il permesso di soggiorno. Certo, chiaro, c'è un problema che il permesso di soggiorno gli va data, le deve essere dato il permesso di soggiorno. Questo è chiaro, perché bisogna velocizzare i tempi. C'è gente che sono 2 anni che aspettano il permesso di soggiorno, delle volte vanno a ritirarlo che già è scaduto, qui dove ci sono i problemi. Però una persona che va a sposarsi in un comune e da clandestino è da folle veramente, non sappiamo nulla della persona, può essere un clandestino, può aver fatto dei crimini nel suo paese, ha un'altra famiglia nel suo paese, ha dei figli, non sappiamo nulla di questo paese. Sì, sull'aspetto di questa persona io penso che non sia giusto, bisogna cominciare a educare anche il clandestino che esiste nel nostro paese, che vive da tanti anni, che lavora da tanti anni, tanto di regolarizzarli, perché bisogna a un certo punto regolarizzarli, però nel però stesso con, tempo con le regole, non si può cedere a questi ricatti al matrimonio con lo sappiamo che sono matrimoni di comodo per avere anche la cittadinanza, non solo ma sicuramente molti di questi lo sono, e voglio dire è cronaca che leggiamo sui giornali. Io vi ringrazio sia l'onorevole Suad Sbai che il sindaco di Mondovì, che ci ha raccontato quella che per sue parole è sembrata quasi un po' una farsa, costretto a celebrare un matrimonio che insomma era palesemente, sembrava un matrimonio di comodo per ottenere il permesso di soggiorno. Allora, l'ultima parte di 24 Mattino, parliamo della class action, che è quella azione legale collettiva che forse insomma avete visto anche in tanti film, è molto in voga negli Stati Uniti. In Italia non è ancora partita, fu istituita o studiata dal governo Prodi, poi un po' rimandata, pare che stavolta ci siamo, con delle novità però importanti. Saluto il senatore Alberto Balboni. Senatore, buongiorno. Buongiorno a lei. Le ruberemo 5 minuti e non di più, perché so che si è liberato dalla commissione. Grazie. Per noi, perché leggiamo oggi, devo dire, soprattutto degli articoli di grande preoccupazione, perché un emendamento a prima firma sua prevede che se la class action entrerà non sarà comunque retroattiva del tutto. Ci spieghi questo punto, perché ci sono già i consumatori sul piede di guerra, glielo dico. Ma questo mi dispiace molto. molto, anche perché io ho fatto un emendamento direi quasi banale per correggere una norma uscita dalla Commissione, quindi non di mia iniziativa, la quale già prevede che la class action non debba applicarsi a casi precedenti alla sua entrata in vigore, con una precisazione: mentre il testo della Commissione prevede una piccola finestra a partire dal 30 giugno 2008 in poi, a me è sembrato molto più ragionevole prevedere il giorno in cui la legge entrerà in vigore, ecco, anche perché norme retroattive non hanno senso. Sì, la retroattività per ora era fino al 30 giugno 2008. Lei ha detto a questo punto, siccome è una retroattività di un anno, togliamola del tutto. Questa è la ragione. Anche perché il decreto mille proroghe già approvato prevedeva che la class action entrasse in vigore il 1 luglio 2009, quindi questa retroattività al 30 giugno 2008 proprio non si capisce quale fondamento giuridico possa avere. E però, senatore, perché sono sul piede di guerra? Perché ma leggo oggi, se vedrà il Corriere della Sera, la Stampa, Libero, insomma tutti i giornali dicono questo vuol dire togliere la possibilità di promuovere azioni collettive, per esempio per il risarcimento Cirio, Parmalat, Alitalia. Allora, intanto bisogna sfatare la solita propaganda della sinistra, perché sostenere che senza la class action sia impossibile tutelare i propri diritti è una bestemmia da un punto di vista giuridico. Noi abbiamo un ordinamento completo, molto dettagliato, che consente a qualsiasi cittadino di promuovere tutte le azioni che ritiene di promuovere a tutela dei propri diritti. Questo a livello politico, mi scusi senatore, Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, Libero, certo propaganda di sinistra. Guardi, riportano le dichiarazioni, ad esempio, del senatore Zanda, che è pura propaganda, perché, ripeto, se lei legge le dichiarazioni dell'opposizione, sembra che senza la class action sia impossibile promuovere cause o tutelare diritti. Io faccio l'avvocato, le garantisco che se oggi voglio promuovere una causa collettiva con 50, 100, 1000 o 10.000 attori miei assistiti, lo posso fare. Qual è il vantaggio della class action? Il vantaggio della class action è che chiunque può promuovere un'azione alla quale chiunque altro può aderire senza bisogno di tutela di un avvocato nella causa. Ecco, questo perché sennò uno vorrebbe dire, se fossero tutelati allo stesso modo, anche con una causa collettiva, le stesse persone, allora tanto valeva lasciare la retroattività, voglio dire. Sì, ma siccome la procedura che viene introdotta è una procedura complessa, è una procedura che graverà sui tribunali, che tra l'altro questa norma concentra la competenza nei tribunali capoluogo di regione, quindi non più il singolo tribunale in base al luogo in cui si è verificato il danno, ma soltanto il tribunale del capoluogo di regione. Quindi, insomma, sarà una procedura piuttosto complessa. Consentire che si possa andare indietro fino a 10 anni per quanto riguarda la responsabilità contrattuale e fino a 5 anni per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale, perché questi sono i termini ordinari della prescrizione, vorrebbe dire intasare i tribunali in modo inverosimile, insomma, ecco. Allora, a questo punto è una disciplina nuova, complessa, rivoluzionaria da un certo punto di vista, perché consente di fare questo appello e che chiunque vi possa aderire. A questo punto la scelta della Commissione, non la mia, io non sono nella Commissione, la scelta della Commissione è stata quella di non consentire l'azione per fatti antecedenti al 30 giugno 2008, io mi sono semplicemente permesso di dire che cosa c'entra il 30 giugno 2008, se si deve partire, si parta da quando la legge entrerà in vigore. Su questo allora, avvocato, per concludere, visto che, voglio dire, anche Libero oggi è molto duro, insomma, un giornale molto aperto, molto liberale, parla di un articolo di Davide Giacalone, insomma, di cittadini consumatori presi in giro dalla politica, risparmiatori beffati, complici, dice anche gli avvocati, visto che lei oltre che senatore è anche avvocato, complici gli avvocati che in quanto a conservatorismo se la battono con i magistrati. Insomma, cioè, è davvero un'interpretazione sbagliata, lei dice, di questa non retrattività che si sta dando. Io sono convinto che, insomma, il nostro ordinamento giuridico non abbia bisogno di scopiazzare niente da nessuno, quindi io penso che già oggi chi vuol far valere i suoi diritti lo può fare senza particolari problemi. Si vuole sperimentare anche questo istituto di derivazione anglosassone, lo si sperimenti, però non diamogli poi tutta questa grande importanza su un piano dell'effetto sostanziale. Certamente comporterà dei problemi su un piano della procedura e del carico di lavoro per gli uffici. Quindi io non sono entusiasta di ciò che viene dall'estero, sono più, come dire, da questo punto di vista nazionalista, anche perché l'Italia, per quanto riguarda la civiltà del diritto, credo non abbia imparare nulla da nessuno. Lei comunque esclude, insomma, respinge al mittente le accuse di avere in qualche modo fatto un provvedimento che salva alcune lobby, che ne esclude, che esclude i consumatori. Carità, ma per carità. Non è affatto così, è semplicemente la mia una proposta di buon senso, che ripeto, si innesta su una decisione presa dalla Commissione, non sono stato io a decidere che l'accession debba o non debba applicarsi anche a casi precedenti alla sua entrata in vigore, ma il 30 giugno 2008 proprio non ha nessun senso giuridico. Va bene, io senatore la ringrazio, la lasciamo allora al lavoro della Commissione, il senatore Alberto Balboni farà discutere sicuramente questa class action di cui si è tanto parlato, se ne parla da un anno e mezzo, anche di più, insomma, da quando fu prevista, e poi insomma finora effettivamente non è mai entrata in vigore, però ci sono già state tante promesse, faremo la class action, quanti titoli si sono visti su questo, ora bisognerà vedere se effettivamente, insomma, è come dice l'opposizione, come dicono molti, i risparmiatori sono beffati, o se, come dice il senatore Balboni, chiunque può accampare dei diritti e può tutelarsi anche con la non retroattività. Ci fermiamo qui, tra poco Giuliano Ferrara, parliamo con l'elefante, l'attualità politica, insomma, col DDL sicurezza ovviamente in primo piano, grazie a Laura Marchesi e Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, potete scriverci 24 mattino @radio24.it, ci ritroviamo domani.